La crisi economica non è finita e si aspettano mesi drammatici sul fronte occupazionale. Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, intervenendo al workshop Ambrosetti, lancia l'allarme, ricalcando anche l'ultimo annuncio del Fondo Monetario Internazionale. La crisi non è terminata e comunque è destinata a provocare serie conseguenze sul mercato del lavoro nei prossimi mesi. Tocca temi economici, ma non solo. Il capo dello Stato si sofferma sul ruolo delle istituzioni europee, critica l'UE in materia di immigrazione, puntando il dito su quelle che chiama forze centrifughe, riferendosi agli stati nazionali. I limiti che tuttora incontra un impegno comune europeo in materia di immigrazione e anche su un piano necessariamente distinto di garanzia dell'inalienabile diritto all'asilo per chi sia costretto a ricorrervi. E ancora dal Colle arriva una critica agli stati nazionali sul modo in cui è stata condotta la campagna elettorale per le europee. Le leadership di governo nazionali devono farsi un esame di coscienza, ha detto il capo dello Stato, perché così scende la fiducia nelle istituzioni del vecchio continente. Stefano Totoro, GR24, Il Sole 24 Ore, Cernobbio.